avait des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. È facile che questa mattina possiate sentire un sottofondo eterodosso rispetto alla normale programmazione di Melog, e perché siamo, come avevo già annunciato, alla Borsa Italiana del Turismo, in particolare al Padiglione 3, quindi se volete veniteci a cercare, seguite il filo di questa voce che fa continui annunci, fra un po' si perderà qualche bambino. Lo dico soltanto all'inizio perché, essendo la rassegna dedicata appunto al turismo italiano, non trovavo locazione migliore per parlare questa mattina di qualcosa che mi arrovella da qualche giorno. Devo dire, non sono stato un grande frequentatore di Sanremo in questa ultima edizione, l'ho visto a sprazzi, ma sono la prova vivente e su di me sperimento il fatto che anche senza guardare Sanremo se ne è comunque contaminati. È come se sapessi tutto di Sanremo, è come se questa mattina io, guardando semplicemente dei velocissimi video su YouTube, sfogliando i giornali, già avessi il termometro di quello che è stato il Festival degli Italiani. Voi l'avete guardato, come l'avete guardato, in che maniera l'avete guardato, l'avete approfonditamente meditato, perché quest'anno Sanremo, devo dire, forse ha una caratteristica rispetto alle altre edizioni. I Sanremo più o meno sono tutti uguali, come se fosse un grande salame che racconta l'Italia degli ultimi 40 anni, ogni anno si fa una fettina, il salame è sempre uguale, non sono quelli discontinui che si fanno dalle mie parti, sono quei salami tutti uguali, le coralline, ogni fettina è uguale a quella dell'anno prima, però in questa fettina magari una fettina più sottile, una fettina austera, una fettina ambigua, si vede in trasparenza molto di quello che sta serpeggiando nel nostro paese. Vediamo se questa mattina voi l'avete capito. Innanzitutto vorrei sottoporvi la parte clou, il momento più atteso di questo Festival di Sanremo, che devo dire conferma esattamente quella che era la mia intuizione. Possiamo parlare del paese, dell'Italia che si rispecchia nel festival, perché il festival vuole essere il momento più alto, il momento simbolico, il momento di coesione dello spirito nazionale di tutti gli italiani, visto che tutti in questo momento sentono il bisogno di punti di riferimenti forti, si sentono come appunto delle navi senza nocchiere in gran tempesta, hanno chiamato quello doveva essere il salvatore del nostro orgoglio nazionale. Sta per arrivare Roberto, è un evento veramente straordinario, unico, irripetibile. Adesso arriverà, secondo me sta già preparandosi. Vi devo dire, è una cosa veramente unica questa sera. Una cosa veramente unica, dice Gianni Morandi, signore sul filo dei 70 anni, con una folta e corvina capigliatura che non ebbe nemmeno a 15 anni, quindi lo invidio tanto, quindi ombra mummificata di ciò che fu una volta, forse una giovane promessa, un bravo ragazzo che chiedeva alle fanciulle di dire alla mamma di mandarle a prendere il latte per poter attingere alla sua fonte inesauribile di nutrimento, non so, qualcosa del genere. Beh, oggi quello che rimane, l'icona mummificata di Gianni Morandi, è il grande cerimoniere che fa entrare il salvatore della patria. Entra Roberto Benigni, strannunciato attraverso un'infinità di polemiche, dice gli danno troppi soldi, non è questione di soldi, Benigni può chiedere quello che vuole. È l'elemento che rappresenta simbolicamente 80024. Qual è il pezzo di voi italiani che vedete rappresentato in Benigni, o il pezzo che vi manca, pensate ve lo possa portare Benigni, che entra su un cavallo bianco, entra simulando una reincarnazione di monumento risorgimentale, entra su un cavallo con un tricolore in mano, è chiaramente una farsesca presa in giro di tutto ciò che è l'iconografia classica, tradizionale e sacra del Risorgimento, questo nessuno lo dice, ma è esattamente così, era una grandissima presa per il culo, tanto che il cavallo a un certo punto inciampa, Benigni stesso non è in grado fisicamente nemmeno di scendere da cavallo, due pompieri in tuta arancione o della protezione civile, che è ancora più rabbrividente la cosa in sé, lo prendono, scendono a cavallo e finalmente inizia il tanto atteso monologo. Ma prima ancora di entrare nello specifico di ciò che disse Benigni, che pare che sia la chiave fondamentale, lo vedo oggi dalla crisi, dalla sindrome di Stendhal che coglie tutti i giornali in estasi per quello che è stato il momento altissimo di Benigni, chiamo il mio primo interlocutore qui davanti a me, che divide con me gli annunci della borsa del turismo italiano, che è Tommaso Labranca. Tommaso, buongiorno. Buongiorno. Tommaso Labranca, ricordo, è un osservatore della contemporaneità, saggista, tra gli ultimi saggi ha scritto un libro su Renato Zero, Da Zero a Zero, edizione Arcana, Michael Jackson, poi L'Uomo nello Specchio, per Rizzoli, Freddie Mercury, per Good Mood Edizioni, Taricone, La vita che desideri, Sogni, pensieri, giorni da guerriero, Jimi Hendrix, Bio Rock, Good Mood, sempre edizioni, sta preparando altri libri, insomma, attraverso le più fantastiche icone del nostro tempo, racconta quello che stiamo cercando questa mattina di rappresentare, i profondi, alti e sublimi sensi dell'esistere, raccontati e rappresentati da quelli che oggi, quello che passa al mercato, oggi ci passa Benigni e quindi noi ci vediamo rappresentati da Benigni. Ecco, come hai visto te questa fantastica eruzione, tu che invece mi hai differenza, hai visto attentamente ogni secondo del festival? Purtroppo quest'anno, dopo anni di latitanza, lo sto guardando tutto e ho visto anche tutto Benigni. Tu l'hai visto stamattina soltanto a pezzettini su internet. Dovevi vederlo tutto perché è stata un'esperienza massacrante, quasi 50 minuti, quasi un'ora scolastica. E dovevano anche giustificare il cachet perché c'erano state polemiche il giorno prima. Un tot a minuto, evidentemente. Comunque 50 minuti penso avrà ucciso chiunque. Io non so, forse Telemortazza di Zola Predosa avrà fatto più odies in quel momento. Era veramente insostenibile. Comunque interessante, perché potevi dividerlo in tre parti il suo intervento. L'intervento centrale, che era questo intervento storico, che adesso sentiremo un pezzetto, con una lezione anche abbastanza insopportabile, tronfia, urlata. Benigni poi ha questa incapacità di concludere una frase. Comincia una frase e poi si perde in una serie di suoni inarticolati. Sai, deve allungare il brodo perché... Sì, però finiscimi una frase, soggetto, verbo, metti un complemento, qualunque cosa finale. E questo è stato il corpo centrale. Poi c'è stato il corpo finale, che mi hai detto sentiremo anche dopo. Sì, lo dividiamo in tre, diciamo... Ma è un climax che si raggiunge attraverso tre ripresine, esatto. Per dare una metafora. Si comincia malissimo. L'entrata col cavallo, quello diciamo è un... Il preludio, prima della lezione, lui cosa fa? Comincia a parlare a ruota libera, però bloccato perché non vuole parlare di noi sappiamo chi, deve parlare d'altro. E ha dimostrato quello che sarà il futuro, diciamo, della satira, della comicità. Quando non ci sarà più Berlusconi, non avranno più niente da dire, perché lui, non potendo o non volendo, perché sapendo che avrebbe fatto più effetto non parlando di Berlusconi che parlandone, non ne parlava, quindi non decollava, non partiva, accennava e la gente non rideva. Io ho detto, a un certo punto andrà via piangendo, abbandonerà Sanremo in lacrime come una valletta disperata. E invece alla fine poi è partito. Benigni ha la grande qualità di poter dire cose banali, scontate, già dette, e avere naturalmente un plauso a 360 gradi. Leggo oggi sul Corriere della Sera l'ironia su Bossi: ti spiego il significato delle parole. Umberto, la vittoria che è schiava di Roma. Ora, che Bossi ogni volta si dice schiava di Roma faccia quel gesto dell'ombrello brutto, si è già visto tante volte, ma anche la mia maestra di prima elementare sarebbe stata capace, come già è stato fatto capace, di spiegargli che nessuno è schiavo di Roma se non appunto la vittoria, che non può essere identificata nel popolo del nord, ma questa è una cosa risaputa. Però lo ridice Benigni per la 100 miliardesima volta e si merita una pagina con titolo sul Corriere della Sera. Questo è il mondo in cui viviamo, adesso non vorrei dire, però capisci, io sono rimasto molto male perché porto tutto a livello del personale, purtroppo non riesco a vedere le cose in maniera universale, cosmica. Io mi sono ricordato ieri sera quando in prima liceo avevo un astuccio delle penne con una piccola bandierina italiana attaccata in un angolo. Ebbene, un gruppo di facinorosi compagni di classe che oggi impazziscono per Benigni mi avevano quasi picchiato gridandomi fascista perché avevo la bandierina di un astuccio che me l'ha comprato mia mamma. Per cui ai tempi non si doveva parlare d'Italia, non si doveva parlare di risorgimento, per carità, che schifo. Sì, il tricolore era all'estrema destra. Adesso invece, a quanto pare, tutto è cambiato perché forse l'ha deciso Benigni. Andiamo avanti con la bombastica inviata speciale al Festival di Sanremo, che ha vissuto di persona sulle sue turgide carni questa vicenda, Marta Cagnola. Due uomini che amo al prezzo di uno. È un po' come due interventi di Benigni e Rai negli ultimi mesi al prezzo di uno. C'è una si ripetono le cose, cari Gianluca e tu dove stavi dislocata fisicamente, Marta, nel momento dell'entrata del cavallo? Io al momento dell'entrata del cavallo stavo dove sto fisicamente durante tutte le serate. Sala stampa. Di Sanremo, in sala stampa, secondo banco centrale, perché in sala stampa i posti sono fissi, distribuiti per testata con un rigore assoluto. Puoi fare la spia di qual era il clima dei tuoi colleghi? Erano tutti entusiasti, stanno lì a aspettare, che bello, che figo, finalmente. Ma non puoi. In realtà molto un clima di attesa, alcuni applausi fragorosi sulle prime battute di Benigni, l'ala sinistra della sala stampa diceva guardate che volti tesi sui vertici Rai, compiacendosi, l'ala destra della sala stampa, e ovviamente non sto parlando di posizioni... Cioè, capisci il paradosso? Uno dovrebbe avere il volto teso per una persona che paghi tonnellate di dobloni e poi dovrebbe anche metterti in crisi, ma è chiaro che non è possibile questo. Sì, poi mi viene anche da dire probabilmente non hanno visto le puntate di Zelig degli ultimi periodi, perché invece pare che insomma la satira anti-berlusconiana non sia sgradita nemmeno a casa Mediaset, quindi dobbiamo farci insomma delle domande anche su questo. Ma tu non trovi, Marta, tu che sì, sei una grande frequentatrice di Sanremo tutti questi anni, quest'anno c'è un grande imbarazzo. Il problema è che il festival parte in un momento topico in cui nella scena politica c'è l'ombra dell'incertezza, soprattutto da chi è marcato, segnato e obbligato ogni giorno a fare scelte artistiche, editoriali, in base naturalmente ai suoi uomini di riferimento. È partito il festival, non sapevano più cosa pensare. Infatti la prima serata, il famoso sketch di Luca Bizzarri e Paolo Cessisoglu, Confine Berlusconi, ha fatto avere un brividino, un frisson, ma io lo vedo che conosco bene i miei polli, come un dire siamo già disposti, siamo già pronti. Infatti poi il giorno dopo hanno ridato la martellata dall'altra parte. Insomma, la RAI in questo momento fa un festa che vorrebbe essere comunque espressione anche di una tranquillità, sicurezza, ortodossia, ma non essendoci oggi un'ortodossia certa su cui poggiare i piedi, quindi è il festival dell'incertezza, è la fetta di salame trasparente, così sottile da rischiare appunto di dissolversi ancora prima di essere messa in bocca. Non solo, poi pensiamo a questa strana composizione, il direttore artistico potentissimo che insomma è attribuito universalmente all'area La Russa, il conduttore che si proclama vecchio comunista e ieri ha detto vado anch'io a cantare Bella Ciao col popolo viola sotto l'Ariston, i comici che si posizionano sull'ala sinistra ma sono comunque figli di Mediaset e a libro paga di Mediaset, le due ragazze alle quali il primo giorno è stato subito chiesto avreste partecipato alla manifestazione delle donne in piazza, diciamo che poverine fanno anche tenerezza, loro vengono fatte delle domande che non sono in grado insomma di affrontare, non avevano possibilità fisiologica di rispondersi. Ma no, e poi mi spiace, ma a me fanno anche molta tenerezza, sono due ragazze giovani, molto belle, due ragazze carine, però non è che devono proprio rispondere a tutte le domande politiche, non ne hanno probabilmente gli strumenti, però subito anche da parte della stampa si è voluto calcare la mano su questo aspetto, su questa dicotomia politica, su questo momento di imbarazzo. Beh, sai Marta, perché secondo me, adesso sentiamo subito la seconda parte Benigni, entriamo più nel vivo di quello di Tommaso Labranca, è un momento in cui l'unica cosa che attizza, l'unico frisson, l'unico argomento che come panna montata è sulle emotività degli italiani, la politica è legata ad aspetti molto pelosi e quindi è come parlare di politica oggi è come parlare di sconcezze e quindi naturalmente ci si appoggia alla politica e si pensa sia qualcosa che comunque tiri su l'ascolto. 800 24 00 24, il tema mi sembra che sia chiaro, attendiamo i vostri contributi. Buonasera, viva l'Italia! Sì. Che bello vedere. Grazie, ecco, volevo fare lo spettacolo per il cavallo. Grazie dell'accoglienza, appena se ne va il cavallo, quindi fra un po' cominceremo a... Volevo dire questa storia del cavallo, poi grazie per questa accoglienza e questo, come si dice, un'entrata memorabile. No, memorabile con il cavallo. E con Morandi, vado sopra. Vogliamo andare su. Ma c'ho una voglia di... Anche se... Buonasera a tutti e di nuovo viva l'Italia! È una cosa bellissima. Mi viene da fare come con Pippo Baudo, ma mi devo tenere. Fallo, No, sta cosa del cavallo è bellissima, anche se all'inizio... Così è iniziato appunto lo sketch Benigni Morandi, abbracciati, due vecchi amici, grandi amici, due uomini irreali, irreali perché non rappresentanti, soprattutto come abbiamo già detto Morandi, e geneticamente la loro classe di nascita, quindi già non rappresentanti nulla se non una categoria di esseri umani irreale, che non ha i segni del tempo che passa addosso. Volevo però a questo punto toccare anche un altro punto, perché poi in fondo parliamo di Festival della Canzone e finora abbiamo parlato di tutto meno che di canzoni. Se lo chiede questo probabilmente Alfredo Saitto. Alfredo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Alfredo Saitto è uno tra i più autorevoli esperti musicali italiani, è un giornalista, saggista, autore televisivo, ha scritto recentemente Yesterday per Donzelli. Alfredo, tu hai seguito tanti Sanremo in sala stampa, mi sembra quest'ultimo non c'eri. No, devo dire che fortunatamente io ne ho seguiti 27. Ecco, infatti sapevo che eri un veterano. 10 da discografico e il resto da giornalista. Ancora una volta quest'anno, Alfredo, l'aspetto sociale, politico, polemico sovrasta di gran lunga poi la discussione musicale. Stiamo parlando di musica e di canzoni e ti volevo dire che in realtà puoi soprassedere a questo bisogno di parlare di canzoni. Non ci sono state. Ma io ti dovessi dire, continuo a leggere e mi domando perché... si dice che il livello delle canzoni di quest'anno sia alto. Adesso io vorrei sapere da che si evince questo giudizio. L'altra cosa che mi lascia perplesso, e quindi sono assolutamente d'accordo con tutti voi di questo festival riflesso di un momento strano della nostra Italia, Mario Luzzatto Fegis da 7,5 ad Albano, ti faccio un esempio, che quello in testa la sua classifica, evidentemente per lui c'è un valore. Ma in realtà proprio le cose che per anni abbiamo definito più becere e che sono appunto l'Albano della situazione, è quello che bene o male ha mantenuto un livello standard alto delle sue cose. Cioè è incredibile invece quello che dovrebbe essere il riflesso invece della musica, tra virgolette, cosiddetta attuale, dove lì c'è una latitanza totale di idee e di proposte. Come al Quindi solito... è mummificato come Morandi anche diciamo la possibilità di dare dei brividi di novità nel campo musicale. Credo di sì, anche perché... forse il momento strano in cui stiamo vivendo proprio potrebbe, almeno se fossimo in un paese attento, dare spazio a una realtà musicale che è eterodossa, che neanche a Sanremo Off è stata accolta, perché dovete sapere che oltre al Sanremo vero, contemporaneamente esiste un Sanremo Off. Quindi dove ci dovrebbero andare tutti quelli che non sono allineati con il concetto festivaliero. Ebbene, anche lì invece sono i rimasugli di quelli che volevano andare a Sanremo e non sono stati presi. Quindi c'è insomma, sono ignorate tutte le realtà che invece esistono. E sono interessanti, ci metterebbero su un livello diverso, però capisco perfettamente. Sentiamo Tommaso Labranca, tu prima dicevi di un tuo momento topico di Sanremo, una steady ovation, c'è stata anche per Benigni, devo dirlo, tutti in piedi, ma in un altro caso c'è stata una dimostrazione chiara di quello che sta dicendo Alfredo Saitto. Sì, è stato un momento abbastanza imbarazzante perché è cominciato bene, diciamo. Morandi ha fatto un omaggio a Gianni Bella, Gianni Bella è un suo amico e purtroppo colpito da un ictus, ha cantato un pezzo di Gianni Bella, l'ultimo scritto da Bella, dopodiché il pubblico si è alzato. Ora, in quelle occasioni la grammatica televisiva vuole che ci si alzi in presenza di una scomparsa, di un morto, di una memoria. Gianni Bella è ancora tra noi, per cui l'importante comunque, sai, è il gioco della partecipazione, partecipiamo e tutti si sono alzati, giusto per far vedere che sentivano la cosa. Emotivamente la malattia passava attraverso di loro. È stato veramente brutto invece, no, dal mio punto di vista è stato bruttissimo, non si fa, cioè lo applaudi, lo ricordi, vabbè, grazie. Immagino Gianni Bella in quel momento non sapeva dove mettere le mani. Con... poverino, cioè spiace veramente, è stato veramente un brutto momento. Fra l'altro poi Morandi ha cantato in maniera, tutti hanno detto che bravo, anche lui è esagerata, è stato un po' una benignata anche una battuta sua. Lo dico proprio per dimostrare la mia imparzialità. Io amo Battiato come artista, ma la prima esibizione di Battiato è stata imbarazzante. È entrato 3 secondi, ha biascicato qualcosa e se n'è andato. Sì, per la seconda sera con gli occhiali da sole addirittura, per avere più carisma e sintomatico mistero forse, come cantava lui, non si sa. E ieri sera invece ha diretto l'orchestra. Ormai chiunque può dirigere un'orchestra, l'abbiamo visto anche con allievi, per cui chiunque, basta prendere una bacchetta, un grissino, un ombrello in mano, può dirigere un'orchestra. 800 24 0024, ci sentiamo tra un istante dopo l'informazione dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. E lì d'Italia, l'Italia se desta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma, che Dio la creò. Benigni commuove cantando l'inno, leggo su Repubblica Spettacolo. 800 24 0024, chi di voi si è lasciato commuovere da questa immagine? Io lo allucino in due direzioni, poi mi dirà Tommaso Labranca qui accanto a me: o di un soldato poverino ormai sopraffatto dal gas nemico che attende, appunto, il nemico con la mazza ferrata che lo finisca, e quindi canta l'inno prima di morire. È la versione più alta, quella più romanticamente ispirata, e quella più bassa di un ubriaco in un fosso che si è rovesciata la motoretta e sta lì e aspetta che la mattina qualcuno lo venga a prendere e riporterà a casa. Tommaso Labranca. Beh, io farei una sollevazione popolare dopo questo inno cantato da Benigni, veramente terribile. Allora, prima di tutto veniva, tu non l'hai visto, dopo 50 minuti circa di fiammeggiante ricordo del risorgimento, quello è morto per scrivere l'inno, e poi mi ha fatto questa versione appunto da ubriaco. Ora, l'inno che abbiamo... Ora, detto fra noi, fa parentesi perché ho studiato il problema, i martiri del risorgimento erano veramente dei fighi, credimi, erano ragazzi ricchi, potenti, pieni di terre e possedimenti, che si sono fatti ammazzare per un'idea, pure ideale, giusto, esatto, o sbagliato. Esatto. Quindi tanto di cappello, ma nulla a che fare con questa immagine deprimente. Dopodiché il nostro inno è una caballetta praticamente, tipo quella infuocata che c'è nel Nabucco. Il Nabucco è una bellissima opera, tutti conoscono Va pensiero. Più avanti, quando Nabucco... Che ha cantato Albano in maniera riparatoria. E dopo spiegheremo anche quello. Quando Nabucco riprende la ragione, perché viene prima fatto impazzire, poi riprende la ragione, canta di questo brando al fulmine, che è una caballetta infuocata. Andrebbe eseguito così l'inno, perché è un pezzo di musica romantica e quindi infuocata. Non puoi cantarmela come un ubriaco caduto, come dici tu, nel fosso, perché veramente che aspetta, dai, la moglie che lo venga a riprendere. Esatto, dai, la dimostrazione di un paese in ginocchio. Quello era la dimostrazione dell'Italia in ginocchio, che a questo punto, con l'ultimo fiato, l'ultimo filo di voce, canta l'inno nazionale. Alfredo Saitto, in collegamento da Roma, sei della stessa impressione? Secondo te è strumentale aver cantato un inno nazionale in questa maniera dimessa, o fa parte della paraculaggine benignesca e comunque per commuovere fa questo? Beh, devo dire che la parola d'ordine è paraculaggine di tutto il festival, e quindi di conseguenza Benigni non si poteva esimere. Io mi prendo la responsabilità di quello che dico, e quindi dico che ho scritto tantissime volte, analizzando il nostro inno italiano, dicendo che il nostro inno, sotto il profilo estetico, visto che io faccio il critico, è un inno brutto. Tu volevi mettere Yesterday al posto dell'inno italiano? No, dai, non si può. È questo, però insomma, in realtà quando ci chiediamo non perché è bello, sia brutto, e il testo è assolutamente farneticante, è perché uno si domanda, come tu dicevi prima, che questi giovani ricchi idealisti si facevano ammazzare da giovanissimi. Tra parentesi, lui non si è fatto ammazzare, ma si è fatto ferire, e poi la ferita lo ha portato alla morte in seguito, probabilmente non curata bene. Ma io mi domando, com'è possibile che una nazione si affidi al testo scritto di un diciannovenne che probabilmente non ha lasciato nulla e non è diventato neanche nella storia della letteratura e della poesia qualcosa di importante? Se pensiamo invece alla musica, la musica è stata scritta da un direttore di coro del comunale di Torino, che bene o male ha scritto quella cosa, ma anche lui non è entrato nella storia per aver scritto qualcosa d'altro. Sono un po' come Maurice Albert, che nella vita ha scritto soltanto Feeling, ma Feeling l'ha scritta ed è una grande canzone, poi ci campa lui, la famiglia e i suoi figli. Quindi, tornando a questo, l'unico che è riuscito a rendere ascoltabile l'inno è stato Muti, il quale, per poterlo rendere ascoltabile, lo ha dovuto rallentare in certi punti e accelerare in un altro con un'orchestra di 160 elementi. Questo è quello che abbiamo. Quindi è ovvio che... Sai, questi ormai ci hanno marciato talmente tante persone, tanti alzabandiera, quindi ugualmente caricato emotivamente di un minimo di tradizione, forse per questo ancora ce l'abbiamo nel cuore, poi ci rappresenta. È chiaro che potendo scegliere... Non è stata mai fatta la legge che lo ha... Perché noi c'è una legge che dice che è ancora provvisorio. Cioè, quindi non è nemmeno ufficiale, ma noi viviamo nel provvisorio. Cioè, capito? Quindi è ancora dall'epoca, è ancora provvisorio. È in prorogazio, diciamo, l'accettazione. Esatto. Vuoi dire qualcosa, Tommaso? Chiedere al nostro critico cosa pensa di questa orrenda versione, che io trovo orrenda, di Allievi, che ha fatto una cosa tipo Tarazum Tarazum, che neanche la banda del paese, di non so di quale paesino della Bassa Padana, fa dopo aver bevuto. Eppure è esaltata, e tutte le sere, quando chiudono i programmi in radio, la RAI, dicono buon ascolto con l'inno eseguito dal maestro Giovanni Allievi. Ma ora sarà tutta SIAE che presidente arriva. Io sono della Lega anti Allievi. Oh, voglio scrivermi. Molestamente penso di aver fatto qualcosa anch'io nell'operazione di demolizione del mito Allievi. No, ma anche perché ognuno ha i propri scheletri nell'armadio. Io per anni mi sono vergognato, avendo lavorato in RCA, di aver venduto milioni di dischi di Richard Clayderman. Però al fine al basso livello non c'è mai fine. Proprio cioè, di Clayderman, come il grande Fausto Papetti, a me aveva una funzione tecnicamente, esatto, accettabile. Cioè, poi alla fine è un sottofondo lubrico, quindi almeno serviva. Allievi ha avuto il fatto che mi ha fatto rivalutare Richard Clayderman. Ecco, quindi siamo proprio su livelli molto bassi. E quindi questo è il riflesso della nostra società. Velocemente due ascoltatori. Cristian da Cuneo. No. Cristian. Buongiorno, grazie mille e complimenti per la trasmissione, quando posso vi seguo sempre. Ma io ho ascoltato l'inizio, l'incipit che riguardava Benigni. Io ho ascoltato un pezzo ieri sera, poi veramente per tedio ho cambiato canale perché non se ne poteva più, e questo mi è successo anche quando è intervenuto a Vieni Via con Me con Fazio. E... Vabbè, lei è prevenuto verso il grande Benigni. No, non sono perduto, sono stato un suo grande fan, i suoi film e tutte queste cose qua, fino a La vita è bella, ma vabbè, questo è un... Fino alla fase mistica, sì. Esatto, e trovo che sia veramente, come dite voi, sia stato questo intervento di un noioso, di un inconcludente, veramente... Però vede l'importante risultato, quando si galleggia nel applauso plebiscitario sui giornali, bravo, il giorno dopo si è raggiunto l'obiettivo. Grazie, Paolo da Torino. Paolo. Buongiorno a voi, faccio in fretta. Io, non ho, indipendentemente dalle idee politiche che può aver Benigni, trovo che tutto sommato in 52 minuti ha fatto come ha fatto, una lezione anche se tratteggiata di storia di 600 anni, e penso che i 200.000 euro che gli hanno dato valgano molto di più di 350.000 che erano stati dati a Tyson per due o tre grugniti che aveva fatto sul palco. Quantomeno Benigni ha dovuto ristudiare un po' di storia per farcela arrivare in qualche modo, però trovo che non, a me non è dispiaciuto. Certo, è stato un po' lungo, ma non l'ho trovato assolutamente uno spettacolo indegno, ecco. Solo per non prendere le distanze, ma sul fatto, certo, dei soldi Benigni non ho nulla da dire. È un artista, se ha un suo cachet e, certo, ha un suo mercato, è giusto che prenda i soldi qualunque cosa faccia, se gli danno. Sì, no, è d'accordo. Però sull'aspetto Tommaso Labranca, su questa, no, 600 essere, anni condensati in un quarto d'ora, si dice banale e qualunquista anch'io, visto che ieri sera ero su un blog a commentare queste cose e tutti dicevano questa è una lezione che andrebbe fatta nelle scuole. Perfetto, dicevo, diamo lo stesso compenso anche agli insegnanti scolastici e loro faranno una lezione del genere. Cioè, ci sono insegnanti che tutti i giorni la mattina fanno 52.000 minuti di storia del Risorgimento non prendono così tanto, per cui mi sembra veramente scandaloso il doppio, quindi, questa presenza di Benigni. Marta Cagnola, scusa, ti ho lasciato finora in silenzio, chiudiamo la prima parte, poi ti darò molto più tempo. Marta. Allora, intanto vi do i numeri e non figurativamente. Ecco, quello volevo, brava, brava. 15.398.000 spettatori nella prima parte, pari a uno share del 50,23%. Stanno scendendo in questo momento. La seconda parte, 7.529.000, share del 53,21%. La media ponderata della serata, 12.300.000, share 50,90%. Allora, Clerici ha fatto 46, Bonolis 47,17. Quindi è stato comunque, dal punto di vista degli ascolti, un grande successo, è innegabile. Innegabile, innegabile, e devo dire, avete messo moltissima carne al fuoco, non saprei da dove partire. Posso no, dire sei stata preziosa, che ci ha dato intanto in anteprima i dati d'ascolto, e questo è stato un grande servizio. Diamo immediatamente la linea all'informazione del traffico, ricomincio subito con te, su un commento rispetto all'aspetto musicale di cui abbiamo già parlato, e queste iniezioni di formaldeide pura che danno comunque vivacità al cadavere, com'è stata, con grande rispetto per l'ascolto che ha avuto, l'irruzione a cavallo di Benigni. A tra un istante. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 00 24, stiamo prendendo in quest'ultima parte appunto posizione rispetto al Festival di Sanremo, che rispecchia il nostro paese e come il nostro paese si sente rispecchiato nel Festival di Sanremo. Abbiamo già preso coscienza che questa mattina, per rappresentare il pensiero che io intendevo esprimere, ho radunato una massa di terrificanti snob, di schifosissimi pretenziosi intellettuali, perché tutto quello che abbiamo detto nelle prime due parti è stato vanificato dai dati d'ascolto che ci ha dato puntualmente Marta Cagnola, bombastica inviata al Festival di Sanremo, e ci hanno smentito. Gli italiani hanno avuto un consenso plebiscitario nei confronti di Benigni. Marta Cagnola, la tua impressione rispetto al punto di vista di noi con tanta puzza sotto al naso, e poi il popolo della televisione che alla fine gli è piaciuto, gli è andata bene questa bella suppostona di tachipirina, ha fatto passare tutte le febbricitanti pulsioni che davano incertezza. Ma non è esattamente così. Intanto io sto uscendo di casa e vi annuncio che finalmente su Sanremo c'è il sole dopo 4 giorni di pioggia. Avrà portato anche sarà comunque merito di Benigni, non lo so. Non è necessariamente così, perché il festival lo si guarda comunque. Adesso io non vorrei citare per forza Tommaso Labranca, perché è un ospite, ma anche perché è il mio guru di riferimento, oltre che carissimo amico. Si ha molta paura del popolare. E allora, per quanta paura abbiamo delle cose popolari, le definiamo trash per prendere le distanze, lui dice. No, guarda, qua noi amiamo le cose popolari, io le guardo, mi piace quando sono espressione genuina di un sentire popolare. Benigni non è genuina espressione di un sentire popolare, è un'artefazione totale, però, secondo me. Lo è Sanremo, e secondo me la cosa significativa, che vorrei, un altro pezzettino di carne che vorrei mettere al fuoco oltre a Benigni, è stato il momento dell'italiano di Toto Cutugno. Io ieri avevo un amico in sala, un insospettabile amico musicista, cultore di musica raffinata, che si è trovato all'Ariston un po' per caso. Mi ha mandato un SMS con scritto: credo di essere malato, mi è piaciuto Toto Cutugno. Allora, quello è quello che deve essere Sanremo, cioè non deve essere, capisco il discorso del livello delle canzoni, però alla fine io trovo che Sanremo debba essere questo, e debba essere anche Benigni, nonostante, immaginatevi, i 52 minuti per me sono stati interminabili, anche perché io ho passato il tempo a scalettare tutto quello che diceva, io non ce la facevo più. Davo le testate alla scrivania. Sì, tu avevi, certo, avevi un compito professionale, dovevi poi tradurre in un pezzo quello che lui aveva detto, lo so. Sì, il problema è che però questa curva nordizzazione, curva sudizzazione dell'Italia in questo momento fa sì che qualcosa debba essere applaudito o fischiato per principio. Allora tutti lo guardano per applaudire o per fischiare per principio. È una cosa chi fa, io ti confesso, c'hai ragione Marta, io già mi aspettavo questa mattina, senza averlo visto, di prendere le distanze e sbeffeggiare la benignata. Perché? Perché fisiologicamente non sono fatto così, ma io ho piena consapevolezza dei miei limiti, delle mie visioni parziali, dei miei pregiudizi, e me ne faccio bandiera. È vero, sì, servono occasioni forti, personaggi forti che riescono a dividere a metà perfettamente il consenso e il dissenso. Non è il momento delle sfumature, e infatti questa è una prova palese. Signore e signori, l'Argentina più amata dagli italiani, Belén Rodríguez. Io sono molto contenta, sono molto contenta. Cosa hai pensato la prima cosa stamattina? Il primo mattina, pensiero. Quando mi sono svegliata, sinceramente ho pensato a due persone molto importanti per me. La prima, ovviamente, è la mamma. La mamma è la mamma, no? Certo. E poi lei mi ha insegnato a credere nei miei sogni. E quindi io, guarda, veramente mamma, io senza di te non sarei arrivata dove sono arrivata. Tommaso Labranca. Ho preso a caso una delle tante mamme evocate fantasmaticamente e sottilmente presenti nel festival, anche concretamente presenti. Ci immaginiamo Belén Rodríguez che si sveglia la mattina e pensa alla mamma, con corona, tutto tatuato vicino, coperto di tatuaggi, unto di balsami muscolari, e allo stesso tempo quella imbarazzante entrata della Clerici con la bambina doveva presentare come fosse una principessina di stirpe reale, contraddicendo quello che aveva detto l'anno prima, perché poi aveva fatto vedere la bambina, i bambini mai una mia figlia sul palco dell'Ariston, poi l'ha portata lì, non ha resistito. La mamma riappare in sottotraccia, quindi il festival dimostra quello che diceva Marta Cagnola, la sua vena pop più essenziale, mamma, mamma, mamma, è presente ancora. Allora, lasciamo stare Belén, perché io sono diventato ormai un passionario di Belén, ho fondato la chiesa degli ammiratori di Belén, perché io trovo che sia eccezionale, bravissima, abbia dimostrato di essere quello che in TV in Italia non si vedeva più da 40 anni. Sì, fantastica, poi del tirar fuori la mamma. No, io ci credo, perché quando lei, quando c'è stato il ballerino di tango, prima serata, hanno provato la controfigura di Berlusconi, identica, che era abbastanza che simile. Era un morphing fra Berlusconi, Paolo, Silvio e un pochino, non so, altre figure parallele. Dopo che lui, questo sosia di Berlusconi, ha ballato con la sua compagna, e Belén era entusiasta, ha guardato verso la platea dove c'è il padre e ha detto: papà, hai visto? Ha mandato un messaggio come per dire: tu hai capito quello che hai visto come l'ho capito io, perché siamo argentini. Quindi era sincera. Io trovo che Belén sia sincera da questo punto di vista. Lo trovo meno sincero l'atteggiamento mammista della Clerici, perché ed è stata una lamentela che hanno fatto molti miei amici giornalisti. Quando pubblichiamo una foto di un bambino, dicono questi miei amici, dobbiamo pecettare gli occhi, non farli riconoscere, 2000 leggi sulla privacy che difendono i bambini, non si possono usare i bambini in pubblicità, e i pubblicitari vanno a registrarle poi a Lugano, dove si può fare comunque. E poi la Clerici porta questa povera bambina, che a quanto pare era stata, non so, drogata con la citrosodina per tenerla buona lì, ferma, perché era immobile, di fronte a tutti questi spettatori. Mi sembra sia stato veramente un brutto momento. Beh, si è intravisto però il desiderio di rappresentare sempre una casta. Non so se gli italiani se ne rendono conto, ma soprattutto la televisione pubblica deve dare sempre segni che esista una casta regnante. In platea, vedete, c'era sempre Giletti, c'era sempre i personaggi che sono lì, come se anche non appartengono naturalmente a quel programma, non avrebbero nessun titolo di stare lì. Bisogna vedere che ci sono sempre tutti. È come le famiglie reali, che ogni volta che si affacciano al balcone mettono anche le suocere, le zie e le nonne. Marta Cagnola, e pensate al dolore di quando qualcuno esce da queste famiglie reali, da quando qualcuno viene estromesso da questo mondo. Io in questo periodo, soprattutto sui social network, sento critiche di Sanremo di giornalisti non più accreditati, produttori che avevano mandato la canzone ed è stata esclusa. Certo, ne conosco uno che si è iscritto al gruppo Chiudiamo Sanremo e so benissimo che ha mandato una canzone quest'anno e non è stata presa. E quindi alla fine è un mondo... Secondo me non andrebbe mai chiuso Sanremo, perché è giusto che ogni anno noi facciamo questa riflessione guardando il Festival di Sanremo. Diciamo, nell'anno liturgico televisivo è giusto ci sia il momento quaresimale, che infatti è Sanremo, che più o meno cade in quel periodo, cade sotto Carnevale o prima di Carnevale. Dobbiamo riflettere su noi stessi, appunto, seguendo il Festival di Sanremo. Alfredo Saitto. Allora, tu sai che sono anni che porto avanti l'idea di fare il Sanremo come le Olimpiadi ogni 4 anni. Sì, è vero, questo bene, è vero. Però in realtà però nessuno mi dà retta. Tra parentesi, una complicazione di servizio: ormai la mia batteria del cellulare si sta spegnendo, quindi se sparisco non è che non trovo avvincente il dibattito, ma in realtà i problemi tecnici mi sovrasteranno. Tanto tra un minuto ci spegniamo anche noi, quindi moriremo assieme. E riguardo all'entourage e al così al sottobosco sanremese, a tutte le cose, il Sanremo è sempre stato così e sempre lo sarà. Noi dovremmo pensare a qualcosa di cioè io solo sentendo il dibattito oggi della tua trasmissione mi sono avuto un aggravamento forte della mia gastrite. Vedere mi dispiace, ovviamente di questo mi dispiace molto. No, ma vedere Sanremo me la sono per fortuna registrato e mi vedevo i pezzetti andando veloce su alcune cose perché non me la sentivo di vedermelo tutto come per anni ho fatto. E poi mi interessava sentire le canzoni. Probabilmente sono ancora un po' snob, credo che una volta che una cosa si chiama in un modo. Il festival della canzone italiana, uno dovrebbe parlare di canzoni, ma questo ha detto Saitto, quindi Sanremo lo rivorrebbe come festival della canzone, mentre Tommaso Labranca, Marta Cagnola ed io siamo convinti che abbiamo questa fantastica occasione annuale di parlare un po' male di noi stessi, delle persone che ci stanno antipatiche, quindi sia benedetto Sanremo. Grazie a tutti, a domani. Melog 2.0. Tous les deux enlacés.